rotto i coglioni con questo programmino. Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina. Mo ti spruzzo l'autan. Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. È un giorno in cui ci vorrebbe un intervento, lo dico questa volta facendo quasi un appello, caro David, quasi un appello, ci vorrebbe davvero il mitologico Riccardo da Roma. Un giorno, no. Beh sì, oggi ci vorrebbe il mitologico Riccardo da Roma, e te lo spiego subito, perché oggi abbiamo assistito a una di quelle giornate drammatiche, una di quelle giornate anche un po' ridicole, drammatiche soprattutto per chi lavora. Per chi sgobba, per chi lavora, per chi si deve spostare, per chi si deve sudare il lavoro, non per chi lo chiede. Beh. Scioperi dappertutto, poliziotti feriti dagli autonomi scatenati, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Ho assistito ad uno scontro, a proposito di centri sociali, ad uno scontro in televisione con un Parenzo quasi basito a Matrix tra... No, vabbè, non ero basito, ma poi ti dico se vai, non vai tra avanti, Narda, vai. Quello del che è salito il signor Narda, sì, signor Narda, il signor Narda, sì, il balzatore sul cofano di Salvini, e lo stesso Salvini a Matrix in realtà è sul paraurti, sì, lui dice sul paraurti, quel... sì, lui dice, sì, in no, realtà sul cofano, no, non è l'atleta, quello è un atleta vero, l'altro, sì, no, ma quello che è salito sul cofano, ma sul cofano è andato pure lui, non ti preoccupare. Allora, signor Narda, eroico, ma che eroica, dai, è un cretino, dai, diciamo la verità, eroico. È un cretino, sì, un eroico perché viene in televisione, ha rischiato di morire, pure te che credi a questa cosa qua, dai, pure tu credi a questa puttanata che ha rischiato di morire, ma dai, ha rischiato di morire per colpa sua, se sali sopra una macchina uno sgomma, se ne va e rischi di finire sotto per colpa tua, non per colpa di chi guida, dai, su. Non ho detto questo, dico semplicemente lo dovresti dire. Fosse stata la macchina della Chieng, avresti detto che questi sono gli assassini che volevano ammazzare la Chieng, e ha fatto bene l'autista a metterli sotto. Vabbè, io gli ho anche, comunque fai sentire l'audio. Narda Salvini, ieri sera Matrix, sentiamo. Di voi qui Salvini non lo volete? Assolutamente no, anzi siamo contenti che dopo la contestazione di Bologna anche a Imola, a Parma, oggi a Piacenza sia stato contestato, speriamo che sia l'inizio di una lunga serie. Ma voi avete assalito la macchina di Salvini? Noi abbiamo provato a bloccare la sua provocazione, eravamo lì davanti senza niente in mano, e di fronte a questo ha fatto un tentato omicidio. È un tentato omicidio quello che ha fatto. Questo più parla e più mi fa dire che per questa cosa qui precisa Salvini ha ragione, non al 100, al 300% per questa cosa dell'assalto in macchina. Poi uno può ragionare politicamente, bisognava andare, la polizia, eccetera, eccetera. Sentiamo ancora. Salvini, senza che da studio provi a fare così, non sembrava che ce l'avevate molto duro sabato quando eravate qui, quindi non ce l'avevano duro, azioni, ma diciamo per ma il loro di modo di fare sembrava che fosse scappato anche un bel po' impaurito. Vai a renderti utile, Salvini. Vai a tirar sul fango nelle zone alluvionate, Salvini, caro Salvini. Io non vorrei che facessero neanche un quarto d'ora in galera, mi piacerebbe che fossero condannati a fare dei lavori di volontariato con gli anziani, a pulire dei giardinetti, a spalare il fango, così almeno capiscono che prima di sfasciare le macchine devono fare qualcosa di utile per la società. Poi tornano, Salvini, se vogliono andate un po' a lavorare voi che siete la vera casa, siete il partito più vecchio in Parlamento, è da 20 anni che siete lì, l'unico partito che arriva dalla Prima Repubblica. I tuoi genitori non ti hanno insegnato che sfasciare le macchine non è da persona educata? I tuoi genitori ti hanno detto bravo, così per capire. Io da tutti i video ero lì davanti, sono stato investito dal tuo autista con sì, vabbè, ho capito, quindi, siamo a scherzi a parte. Ma i tuoi genitori, quando ti hanno visto che sfasciavi una macchina, cosa ti hanno detto? Nessuna I tuoi genitori, quando ti hanno visto che sfasciavi... Ah, se mio figlio da grande sfasciasse una macchina, prende gli schiaffoni dal papà. I tuoi genitori cosa ti hanno detto? Io non ho sfasciato una macchina, no, sono stato sei sfasciata da sola la macchina. Vabbè, vai. Punto basta, numero basta. Uno. Punto sei numero sfasciata due. Da sola la macchina. Lo stesso Narda fa un appello: contestate Salvini in tutta Italia. Noi invece pensiamo che le contestazioni a Bologna, Imola, Parma, anzi lanciamo un appello in tutta Italia, contesterete Salvini, lanciamo un appello perché sia contestato ovunque vada, ma senza vada. Violenza però vabbè, dipende se tenterà di nuovo di fare dei tentati omicidi, no. Qui siamo al totale ribaltamento della verità, diciamola tutta, al totale ribaltamento della verità, questo bisogna dirlo. Io sono uno che contesta Salvini quando c'è bisogno di contestarlo, dice che fa delle cose giuste quando penso che faccia delle cose giuste, e lo dico per chiunque, ma in questo caso siamo completamente al completo ribaltamento della verità. Allora, Tor Sapienza, qualche voce moderata. La mattina un quarto alle 5 armata di coltello per andare a guadagnare 180 euro al mese, gliene danno 30 al giorno, ma stiamo scherzando? Marino deve venire qua, e stasera questo è il primo edificio sgombrato, perché noi viviamo randi, siamo stanchi. Io sono razzista, sì, io sono razzista contro chi è violento, contro chi va a rubare, io sono razzista se non guardo il colore della pelle. La settimana scorsa qui, in quel fabbricato lì, sono entrati tre rumeni, tre zingari, e sono andati a rubare, li hanno presi, e io dico in faccia, li hanno gonfiati da botte, e non hanno sbagliato, li hanno proprio pistati come l'uva. Parenzo, sai chi è andato oggi? Poi alla fine Marino è andato stasera, un po' è stato contestato, ha strappato un incontro. È andato in bicicletta o con la panda? Non lo so, credo scortato, ma un sindaco però non deve girare in bicicletta, deve girare con l'auto blu e con la scorta. Cioè, no, forse con la scorta. No, con la scorta non lo so, ma con l'auto blu sicuro. Con l'auto blu sicuro. No. Ma perché? Il sindaco deve girare con l'auto blu. Ma perché? Il sindaco di Roma deve girare con l'auto blu. Basta puttanate, basta biciclette, basta con l'auto blu, un'auto blu sola, un'auto blu. Il sindaco di Roma, dico, è il sindaco. No, queste buffonate della bicicletta. Peraltro, le biciclette, lo sai quante persone sono impegnate su questa storia delle biciclette? Tu non lo sai. Ci sono 12 persone impegnate su questa puttanata del sindaco in bicicletta. Lo ha scritto anche lì. 12 persone! 12 persone, ma di che stiamo parlando? Meglio l'auto blu allora. Allora, sai chi era oggi? Prima di Marino a Tor Sapienza? Mario Borghezio. Marione! Eccomi qua, moderati un cazzo! Come dicono giustamente i cittadini di Roma. Cioè, moderati un cazzo, perché quando la situazione è quella che è, altro che moderazione, fanno bene non fare atti inconsulti che riguardano solo le pochissime persone che possono averli commessi, ma la protesta genuina, sana, anche espressa in maniera vigorosa, ci voleva. Se sono riusciti modestamente, anche col mio aiuto, a svegliare uno come Marino, vuol dire che sono proprio a prova di sonnifero. Però scusami Mario, hai perso un po' la voce, che è successo oggi? Abbiamo incontrato molti cittadini, ho fatto una serie di incontri e ho parlato con una marea di giornalisti, con molti cittadini, e mi hanno seguito tutto il giorno, abbiamo avuto due belle... Però scusami un attimo, si può dire che ormai... Ha buttato un po' di benzina sul fuoco, andato lì a buttare un po' di benzinella sul fuoco. No, il fuoco c'era già. Lei però non l'ha spento. Nei corsi nei quali, come sapete, io ero a Bruxelles a fare il mio lavoro di deputato, a votare. Poi appena libero mi sono precipitato, perché vedete, durante la campagna elettorale, la prima cosa che mi hanno chiesto i romani, che sono simpatici e diretti, è stata questa: a Borghese non è che puoi fare il paraculo ed è una volta che sei stato eletto non te vedremo più, voi tutti gli altri stronzi che vengono a chiedere i voti. E io dico no, perché io sono come quelli della Lega, torno dopo le elezioni e farò il mio dovere, se mi chiedete, mi date, sostenete, per essere aiutati. Io dopo, senti una cosa, ma è vero che vuoi prendere la residenza lì a... Non escludo di prendere la residenza a Roma, ovviamente non tradirò mai quelli di Sette Camini, che è stato il primo grande... Beh, non escludo, dillo, sì o no, la prendi sta residenza o no, Mario? C'ho anche una residenza fiscale, legale, eccetera. Non è una cosa che si fa in due minuti. Vabbè, l'hai detto così. De facto, un domicilio, come minimo un domicilio sicuramente, se io mi metterò già in contatto da domattina con gli amici di Sette Camini. Sì. E un senti, ma... di riferimento anche simbolico. Senti, ma scusa Mario, ma perché non fate... diciamo la verità, la Lega pare che sia in crescita, sembra, anche a Roma, no? C'è una grande... sembra. Tu cresce dici... come il Po. Cresce come il Po, beh, speriamo che non esondi, diciamo, no? Esonda, però... No, speriamo che non esondi, benefica. Che non provochi danni, sto dicendo. È un'irrigazione di sostegni. Di sostegni. È una grande Lega, quella trazione Salvini. Una grande Lega. Però, la Lega col trattore. Ecco, però, Mario, ecco, col trattore. Però, il vero problema è... ma non è che state preparando una marcia su Roma? Beh... Una bella idea, non nuovissima, ma veramente bella. Cioè, io la trovo, come dire, consanguinea. In che senso consanguinea? Cioè, la Lega consanguinea, cioè mi entra nel sangue, ce l'avevo già nel sangue. Ce l'avevi già nel sangue, questo è noto. Ce l'avevo diciamo. Già nel sangue. Cioè, dovremmo preparare una nuova marcia su Roma, la Lega. Ma io credo che più che altro ci sarà la marcia dei romani verso la Lega, perché se viene Salvini bisognerà mettere le transenne, perché da quello che sento addirittura le transenne mentre mi avvisavano di questo collegamento ero davanti al palazzo di Roma, la sede di Casa Pound, e in 30 secondi sono fermati due macchine di tassi, è tirato giù il finestrino, ho detto Borghetto vai avanti, cioè, ma la vera sinistra ormai siete voi? Io credo che noi siamo il nuovo partito della gente, del popolo. Vabbè, d'accordo, ma la vera sinistra siete voi o no? Ormai si è fregato i voti della gente che non ne può più alle scorse elezioni, ma adesso li recuperiamo noi, perché la Lega è la... Però pensaci alla cosa della marcia, pensaci un po' alla marcia su Roma, la nuova marcia su Roma. Ma quella è una bellissima idea, l'abbiamo già fatta tempo fa, ma non era impostata bene. Adesso appunto. Bisogna farla con molta gente di Roma, bisogna farla insieme, vabbè. Bisogna fare una marcia a Roma. Una marcia, sì, però comunque, diciamolo pure, una marcia su Roma, che tu sei, ti emozioni quando si parla di marcia su Roma, no? Certamente, sai, io vengo da Torino, quindi marciare su Roma è... No, tu ti emozioni per un altro motivo, Mario, dai. Diciamo che secondo me ci sta, su Roma ci sta, comunque... È una marcia che deve partire da Roma, quindi quella marcia con gente che fa la marcia su Roma, ma soprattutto fatta da romani. Vabbè, un attimo solo, i romani che devono riprendere in mano la loro città. Vabbè, un attimo solo che c'è il traffico, Parenzo ha mutolito, che è successo? Ha mutolito. Ma sono rimasto agghiacciato dalla marcia su Roma. Beh, la marcia su Roma è una nuova iniziativa borghesiana lanciata qui alla Zanzara. Traffico. Nuova, diciamo che degli anni... Sì, diciamo che ce n'è stata una nel passato, però, sai, traffico. Traffico veicolare. La Zanzara. Ci sono moderati, moderati un cazzo! Beh, si è risentito poco fa un Borghezio Dantan che non è finito, però, caro Marione, non è finito. No, ma proprio ieri sera il cartello con quel motto modestamente coniato da me nell'Appennino, un paesino dell'Appennino modenese, i militanti della Lega si sono fatti fotografare tutti con scritto moderati un cazzo. Sì, senti Mario, una cosa, ma secondo te da Tor Sapienza gli immigrati vanno mandati via tutti? Ma no, intanto con gentilezza, dico, con sono quelli gli stessi cittadini, dicono che ce ne sono alcuni che si sono integrati, non danno fastidio. No, ma secondo te quelli là che stanno in quel palazzo lì, no? Quelli... Ma io dico quelli che delinquono. Quello siamo tutti d'accordo. Certo. Perché ci hanno denunciato, un cittadino ci ha denunciato, questo è un fatto gravissimo, che in un prato, in pieno di Tor Sapienza, c'è un prato dove questi poveretti dormono di notte su giacigli improvvisati e fanno dei fuochi per riscaldarsi e per illuminare i fuochi. Ma sulle illegalità siamo tutti d'accordo, ma quelle ascolta, e loro si sono rivolti alla polizia municipale e la polizia, a questi italiani che hanno telefonato lamentando questa situazione, gli ha detto allora cambiate residenza. Vabbè, io voglio capire una cosa, quel centro immigrato deve rispondere Marino, la sua polizia municipale. Vabbè, d'accordo, ma quel centro immigrati va smantellato, cioè gli immigrati non vanno... devono mandare più gente nei centri immigrati nelle periferie di Roma. Quello è vero, è una decisione assurda. Li mandassero ai Parioli, li mandassero ai Parioli. Ha nauseato i cittadini romani. Senti una cosa, ma tu che cosa avresti fatto al posto di Salvini? Andresti a prenderli casa per casa, non ho capito. Non è che puoi andare a casa. No, aspetta, prima di passare a Salvini, ma tu andresti, Parenzo stava dicendo, andresti a prendere. No, dico, non è che vai a prenderli casa per casa, proprio per censire gli immigrati, oppure bisogna andare a prendere casa per casa gli immigrati? No, certamente bisogna fare un rastrellamento. Provvedimenti che un governo serio dovrebbe fare è un'anagrafe dei residenti e dei clandestini, dobbiamo sapere dove sono, chi sono, registrarli, individuarli e naturalmente. Ma qualche rastrellamento va fatto secondo te? Consentire alle pubbliche autorità di censirli. Ma quello lo sanno già chi sono. E costringendo naturalmente alla collaborazione con metodi diplomatici. Ma qualche rastrellamento perché nessuno dice, nelle varie trasmissioni, nessuno dice che c'è un articolo, l'articolo 3. Scusate, numero 13 del trattato di Cotonou. Vabbè, adesso lasciamo perdere Cotonou. Impone agli stati africani di riprendersi i clandestini. Questo lo dicono nelle conferenze africane, anche certi paesi africani. Lo ha detto il Marocco, che io voglio elogiare perché ci sono degli stati arabi che hanno una visione moderna e seria dell'immigrazione. Senti una cosa, scusa un attimo Mario, che depaupera dei migliori giovani paesi di Mario, paesi. Scusa un attimo, ma se tu fossi stato in Salvini lì dentro quella macchina, no? Non saresti uscito e affrontando a viso aperto quei quattro ragazzotti là o no? Io già una volta ho affrontato a viso aperto 400 che non dovevi. La polizia mi aveva detto che era meglio che non salissi sul treno. Io ma tu saresti sceso, dalla macchina o no? Ho pensato che dovevo stare comunque sul treno, per poco mi ammazzano. Quindi Salvini ha fatto benissimo, ha avuto la fortuna di avere un autista esperto come il nostro autista leghista che l'ha portato via e l'ha salvato insieme a una consigliera. Ma doveva accelerare, l'autista doveva accelerare di più. Fabri, colgo l'occasione per dire... No, ma aspetta, Mario. Romagna, vota Lega. Vabbè, ho capito, ma non è che si può far campare così. Però il capolista Fabri... Ho capito, ma lasciamo perdere Fabri. Detto, no, certo, ma, vota Fabri. Ma faresti, se bisognava fare un'accelerata più forte con quella macchina, scusami. No, è stata già buona, ma guardate... Non conoscete l'autista leghista, un bergamasco con le palle quadruple, era quello che ci voleva e ha salvato Salvini, certo è incredibile che un segretario di partito non possa andare a fare comizi in Emilia come in questa campagna senza essere... Ma questo signore, se lo incontrassi, questo signore dei centri sociali che ieri pure era da Matrix, questo signor Narda che ha detto che forse denuncia Salvini... Si chiama Merda. No, Narda. No, ho capito, no. Ho capito Merda. Ho capito male, scusate. Ho sentito Narda. No, ma non offenda, dai. Non offenda. Comunque deve essere un antagonista, con quel nome lì. No, ma non offenda. Senti, scusa, ma perché non ti inventi... Mario, perché non ti inventi un tour nei campi rom anche tu, scusami? Vai tu direttamente nei campi rom a fare un tour di legalità. No, quello che invece vi posso dire è che io chiederò anche agli amici che ho a Roma... che conoscono bene le periferie di fare un censimento dei campi romani, perché abbiamo la netta impressione che nemmeno Marino sappia quanti e dove siano. Sì, ho capito, ma perché non vai tu direttamente? Hai paura di andarci? Perché non vai tu? No, ma ci sarà occasione, noi perlustreremo la città. Queste annuncia un tour nei campi rom di Roma. Nella zucca. Noi le perlustreremo una per una. Cosa dici? Annuncio tra l'altro che la... No, ma cosa vuoi perlustrare? Cosa vuoi perlustrare? Il mitico euro. Sì, ho mitico. Capito, ma cosa vuoi perlustrare? Non ho capito, Mario. Beh, perlustrare le periferie, i campi rom. Campi rom, cioè perlustreremo i campi rom uno per uno. Legge e ordine, l'ordine di Borghezio deve regnare su Roma. All'ordine di Borghezio, anche nei campi rom. Però Lega, tu. Lega, ho capito, Lega, ma nei campi rom. Che... Roma attrazione Borghezio. Ma nazionale attrazione Salvini. Secondo me, quando tu entri nei campi rom, cominci ad avere un po' paura, questa è la mia sensazione. Ma io penso che sui campi rom quello che deve far paura a loro è la legalità, perché purtroppo non tutti, ma molti dei campi rom delinquono. Molti. Va bene, molti. Ciao Mario, a presto! Arrivederci! Ciao, ciao! Detto con diciamo il massimo rispetto per tutte le autorità civili, penali, eccetera, eccetera, religiose, civili, sacre, eccetera, non conta un cazzo. La Zanzara. Nomen omen, si chiama merda. Ah, no, ho capito male, scusate. Ho sentito si sentiva la puzza fin di qua. Comunque deve essere un antagonista, con quel nome lì. Legge e ordine, legge e ordine. L'ordine di Borghezio deve regnare su Roma. Hai sentito Marione, no? L'ordine di Borghezio deve regnare su Roma. L'ordine di Borghezio. Sembra una farsa, sembra. Volevo dirglielo prima, poi hai chiuso, pensavo che lo richiamassimo, quindi lo mando a fare. Sì, ma parla più bello, più forte, però attacca quel cavolo di bocca al microfono, dai, su che non si no, sentono mazza, cioè, dai. Voglio dire questo, queste passerelle ignobili di ma è politici. La politica, ma non ho capito perché se ci va un altro di sinistra non lo dice, se ci va Borghezio va male. No, cioè ma non ho capito, dai, su. No, ma non è assolutamente uguale, cioè no, il concetto mio è un altro. Le passerelle che questi qui fanno in campagna elettorale in Emilia Romagna e va bene. Ma è normale, dai, su, ma è la politica che deve risolvere questi problemi, no? E dunque i politici. Ma questa è la parola chiave, cazzo. Certo, bravo, certo, certo. Non fare le passerelle e soffiare senti, sul fuoco. Ma soffiare sul fuoco, ma che vuol contro gli uni contro gli altri, dai, perché questo su. È una passata di lì a prendere gli applausi, cioè adesso siccome governa Marino e ovviamente non governa bene la città, quello va lì in ritardo anziché andarci un anno e mezzo fa, perché non è che scopriamo l'esistenza in vita di quella roba, non c'è dubbio. Di quella zona lo scopriamo oggi. Il fatto è che i centri di per gli immigrati, i centri di accoglienza per gli immigrati, primo, non dovrebbero esistere. Giusto, secondo, giusto. Non dovrebbero esistere nelle periferie, che sono già massacrati, li mettono nelle periferie, dove è evidente però, che poi che si scontrano bestie contro bestie, cioè gli estremisti da una parte. No, gli estremisti da una parte, non tutti, gli estremisti da una parte, cioè i violenti di una parte, quelli che abbiamo sentito prima, e i violenti che ci sono pure tra gli immigrati, e dunque nasce un cortocircuito pazzesco. Questo va bene, questa è l'analisi, come dire, tu perfetto, ma non è che le cose si calmano o si chetano se tu ti vedi arrivare Borghezio, bom bom bom. Senti, Borghezio è uno che dice ordine, marcia su Roma, ma di chi dice questa roba qui è politica? Sì, questa è pancia, non è politica. Allora, mandalo a fare in culo se hai coraggio. Senti invece il signor Barin. Pare ti faccio sentire una roba. Coraggio. Guarda come ti faccio incazzare questa volta. Barin, conduttore di Radio Padani, il nostro amico Barin. Barin, senti. Barin potrebbe neanche fare uno spot per le emorroidi, secondo me, neanche quello può fare. Senti il signor Barin. Ma la notiziona, signori di quest'oggi, Tor Sapienza, via i minori dal centro immigrati, hanno vinto i fascisti, titola il Fatto Quotidiano. E certo, siamo tutti fascisti, ma allora prima razzisti e va bene, ma adesso dateci anche dei fascisti, ma che cacchio ce ne frega, ma viva Hitler, ma certo siamo tutti fascisti. Oggi inneggio a Hitler, signori, perché siamo tutti fascisti, perché ci siamo arrabbiati, perché cacchio a Tor Sapienza, il quartiere di Roma, non si poteva più andare in giro, c'erano soltanto ciabattanti che ne combinavano di tutti i colori e si sono un po' incazzati i cittadini. Che mi dici? Ti dico che tra un po' la chiudono quella radio, probabilmente come il giornale, e non ne sentiremo assolutamente la mancanza. Dopodiché ormai tanto può dire qualunque cosa, cioè non lo ascolta nessuno, perché no, se non quei quattro disadattati che ogni tanto chiamano inveendo contro. Beh, dai, sono non è che ormai sono solo disadattati, su, dai. Beh, quelli che ascoltano. Ma no, ma quello lascia perdere gli ascoltatori, alcuni, che non c'entrano niente gli ascoltatori. Ti sto dicendo che alcuni di quelli chiamano là. Guarda, per il tono che usa. Io non voglio che chiuda Radio Padania. Certo, se ma deve come definisci quello che ha chiamato da noi sui Rom, se non un disadattato. Aspetta, adesso ne parliamo. Ma come adesso... lo definisci? No, no, scusa, adesso ne parliamo. Adesso ne parliamo. Io lo definisco un disadattato. Vabbè, ma forse anche troppo poco disadattato. Che vuol dire? Ah, ecco, appunto. E quindi è uguale. Molti allora, io non voglio che chiuda. Sì, ma io non voglio che chiuda Radio Padania. C'è un conduttore che neanche per lo spot, per le emorroidi può fare. Vabbè, lascia perdere. Io non voglio che chiuda Radio Padania. Certo, certo. Se finiscono i finanziamenti dello Stato, beh, amici miei, trovatevi soldi con la pubblicità. Trovatevi i soldi con la pubblicità. Fate ascolti e trovatevi i soldi con la pubblicità. Cioè col mercato, perché va bene, uno può dire quello che vuole, io sono a favore della più ampia libertà di purtroppo lo sappiamo libertà anche di per la libertà di espressione, ma non per la libertà di incitare all'odio. Ma no, ma quello poi se ne occupa, ma io non incito all'odio, di alcune persone se ne può occupare la magistratura. No, di alcune persone se ne occuperà la magistratura, e di quello che dicono le persone se ne occupa la magistratura. Dico semplicemente una cosa, che Radio Padania, se ha le forze per camminare, vabbè, cammini certo, procurandosi gli sponsor, procurandosi la pubblicità, se sono così bravi, e secondo me alcuni sono anche bravi, si trovano la pubblicità. Sono bravi. Io i soldi a Radio Padania, a Radio Radicale, non li voglio dare, chiaro? TG3. Beh, c'è una differenza. No, cioè, è uguale. Dal punto di vista del principio è uguale, non mi interessa, perché è meglio Varin, è meglio Bordin di Varin, che finiscono tutti Varin. Ma cosa? Perché lo conosci di più? Ma che vuol dire? Tutti e due sono pagati dallo Stato. Tutti e due sono pagati dallo Stato. Tutti e due sono pagati dallo Stato. Ma cosa c'entra? Io distingo però. Vabbè, ma che c'entra? Certo, anch'io distingo. Ma anch'io distingo, ma che c'entra? Io sono più a favore, sono più vicino all'idea di Bordin che a quella di Varin per certi aspetti. Ma quello che significa? Ambedue sono pagati da noi, capito? È lo stesso principio. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Contro la riforma del lavoro, CGIL in piazza a Milano con la FIOM, Landini non ci fermeremo, la mediazione del PD è una presa in giro, Camusso la partita è ancora aperta. In 25 città i cortei di Cobas, studenti, immigrati, scontri tra i manifestanti e le forze dell'ordine a Padova e Milano, a Napoli bloccata la tangenziale. Sul lavoro la partita è chiusa, dice Renzi, non mi faccio fermare dal pantano, ho voluto dare un segnale distensivo ma sono pronto a mettere la fiducia. Sui licenziamenti il nuovo centrodestra lavora ad un accordo, Saponi ora ci sono le condizioni per un'intesa di maggioranza, Angelino Alfano ospite del TG3. A Tor Sapienza 14 minori tornano nel centro di accoglienza, poi allontanati di nuovo, contestato il sindaco Marino, qui per parlare con i cittadini. PIL italiano ancora negativo, il 13° trimestre di mancata crescita, riparte in Germania e cresce più del previsto, la Francia, da domani il G20 in Australia. Dopo una breve tregua, nuova ondata di maltempo sulle regioni del nord nel fine settimana, fa paura la piena del Po, preoccupazione per il Lago Maggiore. Andrea. Pronto? Dimmi. Allora, io non sono assolutamente un leghista, però sono pronto a garantire il mio voto a Bitonci. Sì. Se oltre a espellere gli extracomunitari, sì, espelle Davide Parenzo da Padova. E perché, a parte che Parenzo non abita a Padova, ci abita la sua famiglia, e stia attenta appunto, a quello che dici. Se ha generato quell'essere, devono cacciare anche la famiglia. Vabbè, ecco qua. Davide, rispondi tu, perché io veramente non so come rispondere a questo signore. Dai. Andrea, lei è impazzito sul serio oppure no? Scusi, no? Lei sta parlando sul serio? Certo che sto parlando sul serio. Ma lei è impazzito? Lei abita a Padova, è un padovano. Certo. Parenzo ha la famiglia a Padova, certamente non si vergogna di dirlo che ha la famiglia a Padova. Ogni tanto torna a Padova. Penso che tutti vanno, non si vergogna della famiglia, è diverso? No, ma non ha paura di dire. È la città di Padova che si vergogna. Ma non dica Parenzo, cazzate, quelli. Non dica cazzate, Andrea, su. Bisogna prendere contatto con la realtà. Ma che significa questa cosa qua? Ma questo lo dice lei, questa roba qua. La gente, anche i leghisti che hanno votato Bitonci, la gente normale, non le bestie come lei, certamente non dicono queste cose. Bestia, non bestia, ma questa è la realtà dei fatti. Ma quale realtà? Realtà? Ma la realtà della sua testa bacata, della tua testa malata, è così. Giri per Padova, chiede in giro. Ma giri per Padova, che significa? Che c'è? Ma che c'è? La settimana scorsa. Ma che c'è? Il sondaggio per Parenzo? Gira per Padova tranquillamente, sarei nessuno. Sarei andato mascherato, perché se giri per Padova ti cacciano. Ma stai zitto, Andrea, su, dai, non mi faccia incazzare. Mi dispiace per te. mi dispiace per te. A parte che vengo a Padova tra due settimane, quindi se vuoi ci vediamo, vengo sempre. Ma incontratevi in un caffè, incontratevi in un caffè. No, ma non me ne frega, ma questo io frequento gente per bene, mica i malati. A parte che frequentare Parenzo è meglio pestare una merda che frequentare Parenzo. Vabbè, ma questo tu non vuoi frequentare Parenzo, sono affari tuoi. Ma cosa c'entra mettere in mezzo la famiglia? E Padova dovrebbe cacciare la famiglia, quello che hai detto prima, queste follie perché, che dici? Perché avrebbero dovuto abortire. Vabbè, beh, Davide, io non so che dire. Beh, veramente ti assicuro, questa volta non so che dire. Chiudiamo tutto. Cioè, non so che dire. Di fronte a questo coglione, perché questo è un coglione. Perché sei un coglione. Guarda che stavo scherzando per vedere come reagivi, buffone. Ma sei un fregato. Ma che hai fregato? Ma che hai fregato? Ma sei un leghista, ne vorrei cacciare Pareto, ma sei fregato alla grande. Sei solo un poveraccio e basta, guarda. Sei solo un poveraccio. Ma che hai fregato? Ma sei solo un poveraccio. Sei solo un poveraccio, sei un poveraccio. Ma che fregato, col tuo giochino ti ho fregato. Sei un poveraccio. Sei un poveraccio, sei un povero cretino. Ma non fa ridere nessuno, guarda. Intanto ti ho fregato. Ma che hai fregato chi? Cosa hai fregato? Cosa hai fregato? Hai perso tempo e basta, imbecille. Hai perso tempo, cretino. Ma sei un poveraccio. A me mi pagano per fare questa, a te non ti pagano, sei un cretino, capito? A me per essere fregato da te, anche per essere fregato da te con queste telefonie. No, ma io non mi sto incazzando. Ti voglio spiegare, io non mi incazzo. Senti, amico mio, quando mi incazzo tu non lo sai nemmeno come mi incazzo, per cui stai zitto, muto, zitto, muto e ascolta, perché hai da imparare, hai solo da imparare, perché non sai che cosa. Ecco, no, hai molto da imparare da me, hai molto da imparare. Andrea, stai tranquillo, l'unica cosa chiara in questa cosa qui è che tu, l'unica cosa chiara e evidente, tanto sta ascoltando perché questo è un malato, l'unica cosa chiara e evidente è che hai perso tempo, capito? Io sono pagato anche per essere fregato da te e anche profumatamente, che invece a te non ti pagano un cazzo per fare queste telefonate. Prendato che ormai è tutto finito. La Zanzara. Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. Allora, caro David, oggi il quotidiano Il Fatto Quotidiano, stavo per dire Il Foglio, no? E dedica a questa trasmissione addirittura una mezza pagina, pagina 3 del Fatto Quotidiano di oggi. Hai notato? Letto tutto. Allora, testo redatto da un tale che si chiama Giampiero Calapà. Allora, trasmissione La Zanzara, Radio 24, l'emittente di Confindustria. Tal Giorgio da Genova auspica lo sterminio dei Rom. Il giornalista Giuseppe Cruciani dice che ognuno può dire quello che vuole. Poi chiaramente non ho detto solo questo, però c'è la traduzione, come la sintesi è che io dico ognuno può dire ciò che vuole, che è corretto ovviamente, però non è che mi sia limitato a dire questo. Comunque, ecco di seguito l'incredibile dialogo andato in onda il 12 novembre, cioè l'altro ieri, nell'indifferenza generale, cioè secondo questo Calapà. Indifferenza no. Esatto, appunto. E nell'indifferenza generale no, perché noi abbiamo ribadito, eccetera, eccetera. E poi che cosa doveva succedere? Io lo denuncio pure, scusa. Dovevano venire i carabinieri, ecco, caro Calapà, Parenzo, io no, perché non lo voglio denunciare. Ma io l'ho detto, c'è nello stenografico. No, ma va bene, infatti Parenzo lo vuole denunciare. Più di questo, che cosa vuoi? Ma non l'ho detto adesso, l'ho detto in diretta 2 giorni fa. Allora, dopo aver riportato l'intera conversazione, che fra poco vi faccio ascoltare, perché è un documento a questo punto, 5 minuti di oscenità con un'abile e furba modalità di prendere le distanze, continuando a far parlare all'audience non si comanda il tal Giorgio quando bastava interrompere la trasmissione. Ora, noi non interrompiamo quasi mai. Questo signore era intervenuto il giorno prima, lo dico anche così a titolo informativo, per qualche secondo. Io su Facebook alcuni amici mi hanno scritto perché lo hai interrotto per mandare in onda uno sketch con l'imitazione del presidente Ferrero. Bisognava farlo continuare a delirare. E allora, siccome aveva detto una cosa molto forte, cioè che voleva trasformare i rom in mangime per maiali, ho detto, vediamo se stava scherzando, se stava dicendo sul serio, se è un coglione come quello di prima, oppure è uno che faceva sul serio, no? Perché può succedere anche questo. E l'ho richiamato senza sapere nulla di quello che avrebbe detto. Ne è uscita fuori questa augusta conversazione, che è un piccolo spaccato di una piccola porzione d'Italia, perché la Zanzara è anche questo, che ai moralisti di turno interessi o meno, che ai moralisti di turno

No, no, no, io non ho detto, ho citato una cosa di Influenza. È diverso. E ha detto anche che andrebbero presi in una camera gas, poi compattati e resi mangime per animali, ho capito. Vabbè, caro Giorgio, arrivederci. No, vabbè, niente. Vabbè, signor Gruzzani. Arrivederci. Questa voce tranquilla, lo dice con questa voce. Questa voce tipo Himmler, no? È questo che lo rende ancora più pericoloso, capito? Pericoloso, dai. Allora, detto questo, è ovvio che quelli che vengono allo scoperto in questo modo non sono affatto pericolosi, questo credo io, eh. Cioè, poi, ma, per carità, no, ma quelli che vengono allo scoperto così non sono pericolosi, non capisco. Ormai c'è un clima, no, invece è il contrario. No, ma non capisco lo scandalo, francamente, non capisco lo scandalo che viene sollevato degli amici del Fatto Quotidiano. Beh, vabbè, un po' orrore fa. Sì, ma non capisco lo scandalo, ma non capisco. Sì, d'accordo, va benissimo, ma non capisco le accuse nei nostri confronti, va bene? A me piace prendere pietre addosso, però no, ma a me piace entrare nel merito, perché al di là di tutto non solo fa scandalo, questo lo giudicherà chi ascolta, ma fa schifo. Cioè, il fatto che una persona si senta via il numero di telefono, perché per noi com'è che funziona? Bisogna dirlo come funziona. La gente prende al telefonino, chiama l'800 24 24, le nostre centraliste prendono giù il numero di telefono, cioè non è che passano. Lo spiego perché, voglio dire, chi chiama per dire delle cose così forti ha lasciato il numero di cellulare, certo. Non è che passa in diretta, spesso... Aspetta, è spesso. Che vuol dire che non è un filtro, eh? No, cioè, è spesso. Aspetta, censurare. Spesso non è che dicono voglio dire che Hitler. Esatto, sì, questo alle volte dicono voglio sparare su Parenzo, voglio dire su Borghezio e chi se ne frega. Ma spesso, però, comunque, il dato di fatto è che lasciano il numero di cellulare. Questo lo dico perché invece questo aggrava la situazione, non per noi, ma per loro, di questi pazzi. Ma no, ma sai, ci può essere qualche pazzo che dice voi siete quelli che inneggiate il razzismo. Tu non la penserai come me, ma perché c'è un clima in questo momento che è così. Vogliamo dare una notizia da agenzia Sticazzi, come dice Dago Spia? La notizia dell'agenzia Sticazzi è che Morgan lascia X Factor, lo vogliamo dire? Sì, Morgan lascia X-Factor, perché dopo tu dici agenzia, in verità quello lì che è una delle notizie più cliccate delle ultime ore. Sì, qua, sì, è vero, sì. No, è una delle notizie più cliccate delle ultime ore, non certo il cappuccino che poi dire, perché Borghezio andrà a prendere un cappuccino, poi no, ma poi ha fatto un giro. Milioni di persone, ma sì, con un cappuccino, a prendere un cappuccino, dai, non Morgan. Sono tanti anni che faccio questa trasmissione e conosco le regole. Mi dispiace molto perché, come al solito, la guerra fratricida è la più ingiusta. Lo è stato negli Stati Uniti durante la secessione e lo è anche adesso. Io credo che quello che sto dicendo è puramente arbitrario, cioè aleatorio, cioè è come se tirassi un dado. Elimino gli Split for Five, però lascio X Factor per sempre. Arrivederci. Credo di non c'entrare nulla più con le derive che ha preso questa trasmissione. Vi ringrazio, è stato bello. Ragazzi, non poteva mancare un commento di Gasparri, è arrivato. No. Sì, ti giuro, commento di Gasparri. Sondaggio: Morgan Sbrock lascia per sempre X Factor. Secondo voi tornerà? Citando un sondaggio di Libero, il commento di Gasparri è causa nota. Causa nota, cioè la droga, vuole dire. Ma abbiamo con noi Vittorio Sgarbi. Eccolo. Caro Vittorio, voglio intitolare venerdì di Sgarbi. I venerdì di Sgarbi, sarebbe eccezionale. Beh, allora sono del lunedì, mi chiamavi lunedì. Prima una volta ti chiamavo il lunedì. Senti Vittorio, dimmi, che c'è? Che mi vuoi dire? No, tra l'altro possiamo annunciare la nostra pacificazione definitiva, perché che io fui così crudele con voi... Mi fu rimproverato anche dalla bella fidanzata di Parenzo ad aver tolto il pane di bocca a voi televisivi con Radio Belva. Io in compenso ero stato esorcizzato e censurato e ostracizzato in tutte le trasmissioni Mediaset, pur essendo io Sgarbi, dico. Cioè, non sei mai più stato invitato? Non sono mai più stato invitato. Qualche volta mi chiedevano una cosa a un telegiornale, su, non so, una mostra. Mai più né D'Urso, né Matrix, né Pomeriggi, nulla, mai. Allora ieri sera ho visto Crippa, il capo generale delle news, che mi ha detto che io ero stato in quell'occasione come l'editore che stabilisce che non è eticamente giusto mandare in televisione quello che è giusto per radio, e quindi sul piano etico ed estetico avevo interpretato una posizione che lui oggi condivideva, e la vedeva a distanza da un anno a un anno dalla trasmissione, che avrebbe poi celebrato con un secondo funerale, e che ero stato così perentorio ad aver determinato una reazione che era stata però più di tipo mentale che di tipo emotivo. Ma al di là di questo, se è finito questo, alla fine, ecco, alla fine da oggi io posso tornare sulle reti media. Facciamo questo annuncio. C'è stata l'indulgenza generale del Monsignor Parenzo, del Cardinal Cruciani e del Papa Crippa, che è stato molto equilibrato, con una limpida lucidità di eloquio che ho trovato molto bene, preciso. Vabbè, adesso non sdinguazzare troppo, però che perché io me lo ricordavo un po' confuso nelle posizioni assunte in generale, invece ieri ha detto no, tu hai fatto l'editore, ma non sei l'editore, incazzati, io ero senza parole, mentre tu agivi, io pensavo che potevi anche avere ragione, ma eravamo noi gli editori. Tu ci scavalcavi, e oltre a scavalcare loro, scavalcavi anche noi, ci siamo incazzati, però a pensarci. Allora, no, la notizia è questa. La notizia è questa: che Vittorio Sgarbi, che era stato praticamente, io non c'entro niente con questa cosa, né Parenzo, cioè secondo me potevi tornare il giorno dopo. Allora, era stato praticamente cacciato, possiamo dirlo, dalle trasmissioni media. Un anno è durata sta roba. Un anno esatto. Devi sapere che tu lo sai benissimo il passato che ha Vittorio con Mediaset, è una delle trasmissioni più ascoltate nella storia della televisione italiana, cioè Sgarbi Quotidiani. Di che stiamo parlando? Presenza fissa in vari talk, eccetera. Cioè, Vittorio era stato praticamente cassato dalle trasmissioni Mediaset. Da ieri c'è l'annuncio, insomma, adesso non so se sia un annuncio, eccetera. Può tornare, vediamo se qualcuno lo inviterà. Penso di sì. Nelle trasmissioni Mediaset, dalla Barbara D'Urso, da Matrix, magari non gli andrà lui ad andare, non lo so, perché vedremo. Comunque avete osservato una cosa, la mia compostezza, perché fosse toccata una cosa di questo genere a Santoro, Luttazio, Biagi, avrebbero fatto quel pianisteo non mi invitano più, niente. Mi rendevo conto dell'imbarazzo, io avevo un contrattino per Matrix, l'imbarazzo di Telese che diceva no, la prossima volta, e non era mai, perché alla fine c'era questa specie di diktat, che peraltro io ho preso, non dico se era legittimo o meno, come un fatto che non mi sembrava per me così grave, anche se sarebbe stato divertente talvolta partecipare ad alcune trasmissioni su alcuni argomenti che proprio Matrix... Però non ti sei messo a piangere, No, non ho fatto nessun lamento, neanche con voi, brutti, stronzi, cornuti, animali, merdosi, con la vostra trasmissione di merda, vergognosa. Tra l'altro lui ha detto che magari perfino era molto intelligente, ho capito, anche perché loro pensavano di usare te come tu fai con... quindi io ho avuto una specie di transfer, ma non penseranno mica di fare Sgarbi con Sgarbi, cioè di, hai capito? Quindi io avrei reagito secondo lui. Vabbè, adesso non torniamo su quella cosa. No, ma voglio dire, è stato anche divertente come lui è ricostruito in maniera molto serena, no? Non faceva quello che dice Ciro Vietti. Dice no, effettivamente io ho capito che tu l'hai fatto, perché quello è l'originale, loro pensavano di fare. Quando ho detto fatti dare della troia alla Proietti, che non vuol dire che era una troia, dico se tu ti fai il loro gioco, loro ti chiederanno quando hai fatto l'ultima scopata, quando hai fatto l'ultimo pompino. Sono le cose che fanno utilizzandoti, no? Dico quindi mandali a fare in culo. Cercavo di dire a lei che non ha capito, che lei aspettava il momento della sua parola. Non capiva, pensavo che dicessi della troia. Allora ti davo della troia e tu non te ne accorgi. Sì, e ti hanno accusato di averle detto della troia, ma in realtà era il contrario. Ma hai visto che adesso hanno fatto un quadro col culo della Parietti? Sì, l'ho sentito l'altro giorno. Un quadro col culo della Parietti. Lei era contentissima. Era contentissima, incredibile. Figurati a che punto siamo arrivati. Cioè, era contentissima che un sottoposto di Cattelan, che non è manco Cattelan, che un sottoposto, uno che fa parte di una. Della bottega. Un'opera di bottega. Dai, su, ma uno non può essere contento se uno del gruppo di Cattelan ti fa un quadro col culo. Dai, su. L'unica cosa buona del culo della Parietti è la sua natura reale. Cioè? Qualunque riproduzione, cioè una riproduzione del culo è come quando Guttuso faceva il culo di Marta Mazzotto, cioè l'unico culo è quello che lei ha, ogni riproduzione è una riproduzione in qualche modo insensata. Ma perché tu lo conosci il culo della Parietti, scusami. Ecco, qui entriamo subito nel merito, non lo conosco il culo della Parietti, però mi pare di capire che sia meglio la realtà del culo della Parietti che la sua riproduzione. Sì, quello sempre in generale, però. Ma da parte, voi mi parlate stasera di culo, perché quella lì mi stavi raccontando la storia di quelle che sono. Beh, delle femen, di queste femen ucraine che sono andate in piazza San Pietro, in piazza a fare una pagliacciata in piazza San Pietro contro il Vaticano, perché il Papa, secondo loro, non deve andare al Parlamento Europeo. È una pagliacciata. Dai, super, non ti puoi mettere a piazza del Vaticano. Ma io figurati. Davanti a San Pietro e infilarti un coso nel sedere. sedere, dai, no, un crocifisso un nel sedere, dai, su. Esatto, sì, quello. Ma va bene, ma soprattutto è una cosa vecchia che non se la fila nessuno, non è una grande provocazione, è una provocazione ridicola, cioè che non fai tre foto. Sì, questo è vero, questo una, è vero. Ma non è una bella provocazione, è una provocazione patetica, ridicola, quella di infilarti un crocifisso nel sedere, Vittorio. No, ma poi soprattutto lo fanno in un posto sbagliato, perché sì, il Vaticano, quando lo fanno in Russia, ad esempio, dal signor Putin, beh, lì rischia di essere arrestato e quindi va bene, ma in Vaticano, poverini, adesso entra chiunque in Vaticano, perché se uno dice devo parlare con Bergoglio, prego, vengo, si accomoda. Sì, chiunque. Vero, pure Pannella è diventato a favore del Vaticano, no, di Bergoglio. Ma non c'è nulla di rivoluzionario, è rivoluzionario farlo nella piazza di Putin, nella piazza rossa, va lì, in tre minuti ti prendono, prendono le femmine e le portano in gattabuia, ma in Vaticano uno dice guardi, mi sono messo al tuo crocifisso qui, cioè, prego, beh, prego, entri, prego a parlare con Bergoglio. Scusa, non c'è nulla di rivoluzionario. Un attimo solo, che torniamo dopo la pubblicità con Vittorio Sgarbi, il venerdì di Sgarbi alla Zanzara. La Zanzara è un freak show, ma lo dico con tutto l'amore. La Zanzara. Ma te sei una fava, te e tutto quello staff di merda, la radio schifosa marcia delle zanzare morte. Allora, a proposito di queste ragazze, le famose femen, ieri, tra l'altro c'era Vittorio Sgarbi quasi in contemporanea con Virus su Rai 2 e Giulia Innocenzi con Anno 1, nemmeno le zinne, ha vinto la serata, peraltro. Sì, ha vinto Porro la serata, nemmeno le tette delle femen hanno impedito appunto a Porro di battere Giulia Innocenzi, ma a un certo punto hanno fatto il loro ingresso in trasmissione provocando un po' di scompiglio. Sentiamo un po' qualcosa di queste femen che se la sono presa appunto col Papa, perché va a parlare al Parlamento Europeo. Io non capisco qual è il problema se il Papa va a parlare al Parlamento. A me non me ne fotte nulla, perché dirà delle banalità sconcertanti, come è normale che sia. Il Papa dice sempre abbastanza delle banalità, delle cose scontate da Papa, diciamo, no? Raramente c'è qualche picco, no? Però va al Parlamento Europeo, e qual è il problema se va al Parlamento Europeo? Chi se ne frega? Chi si ricorda della visita di un Papa da qualche parte? Nessuno, diciamo, della visita a un Parlamento. Sì, forse in Italia, perché a un certo punto diede l'avvio a quella che poi fu una un'amnistia, se no, se non sbaglio. Comunque, sentiamo. Come non era in principio, dovrebbe essere ora e sempre. Un Parlamento senza Papa, un mondo senza religione, perché Dio non è un mago e il Papa non è un politico. Amen. Mondo senza religione, ma che cazzo vogliono queste qua? Se uno crede in qualcosa, un mondo senza religione, ma di che stanno parlando? Di cosa stanno parlando? Vittorio, di qualcosa anche tu. No, no, mi colpiscono due cose: che quando Calderoli, personaggio pittoresco, si mise una maglietta con una specie di ironia sulla religione islamica, sembrò uno scandalo senza nome. La tolleranza della religione cristiana fa pensare a questa cosa come una cosa che è bene non considerare, ma è vero che il tema di cui loro parlano ha trovato una risposta nel fatto che il Papa, questo Papa, è bello per i suoi gesti, per il suo comportamento, ma ogni Papa dice delle cose di una totale ovvietà. Quindi perché il capo di uno Stato, che lo Stato Pontificio, non possa andare a fare un predicozzo che non sarà sicuramente peggio delle cose che dice Barroso al Parlamento Europeo è incomprensibile. È anche un capo temporale, non è soltanto una figura spirituale. Quindi se ci va il Dalai Lama dirà altre banalità. Le banalità sono implicite in chiunque parla di Dio o di una condizione spirituale, per cui tutti devono essere buoni, sì, l'umanità deve essere per la pace. Poi naturalmente queste cose che può dire Ratzinger come Bergoglio, Bergoglio le interpreta con una qualità umana che è più credibile di Ratzinger. La stessa frase detta da Ratzinger, identica, e detta da Papa Bergoglio, o detta da Pio XII, da Giovanni XXIII, non è più la stessa, perché il corpo è l'attitudine, è l'umanità intesa come vissuto che rende questo Papa così forte. Senti, ma queste femmine che si infilano, che fanno finta Io consiglierei loro di utilizzare cose diverse, cioè il crocifisso non solo non è il posto giusto per metterlo, ma come sappiamo è un parallelepipedo un po' spigoloso, ci sono delle cose più, come dire, tronche cilindriche di cui tutti siamo dotati, che potrebbero più utilmente essere messe nella loro parte posteriore. Cioè io credo che noi potremmo dar loro un contributo. Parenzo, tu ed io, noi, come dire, la nostra croce, la nostra verga, hai capito? Potremmo includere quella. Non per caso nell'iconografia cristiana c'è una cosa paradossale, che come sai la Vergine è vergine e il bambino nasce senza l'intervento di Gesù. Però quando Gesù, Giuseppe concorre per diventare un concorso il marito, c'è la storia delle verghe, c'è un gruppo di pretendenti con la verga. Sì. La verga fiorita, che è un simbolo fallico, sarà quella che fa vincere San Giuseppe, che poi non la userà. Ecco, la verga più che la croce mi sembrerebbe adatta a questi culi protesi delle femmine, verso un destino, insomma. E poi pare che sia tutto un fenomeno costruito. Senti, ma ti ha colpito la condanna, anche se ridimensionata, a Minetti, Mora, Fede? Insomma, è sempre la stessa storia, cioè... Sì, è come dire, il processo che sembra non voler concedere la soluzione all'altro, cioè a Berlusconi, ribadendo che si tratta di prostituzione. Occorre dire che la prostituzione è un mestiere che attiene a persone che vivono in condizioni di indigenza alternativa, cioè non possono fare concorsi pubblici e fanno quindi le troie, ma una che la dà a pagamento a uno ricco non è una troia, è una che fa il suo interesse, e allora il mercoledì la dà gratis a me. Il giovedì è il pagamento a Berlusconi, ma Berlusconi è contento di pagare. Non vuol dire che è troia, vuol dire che ritiene di fare col suo corpo quello che vuole. Sì. Cosa diversa, la prostituzione presuppone un lavoro in assenza di un altro lavoro, altrimenti non andrebbe sulla strada. Perché non può fare. No, ma poi ieri Lele Mora qui da noi ha detto una cosa molto semplice, cioè queste qua non è che avevano i clienti, avevano casomai, secondo lui no, secondo noi sì, perché lo sappiamo quello che succedeva, avevano una sola persona, che una, era sola persona. Una sola persona a cui si rivolgevano per favori di diverso tipo, come succede, diciamo, spessissimo. Tutta questa roba qui, perché bisogna chiamarla prostituzione, appunto, inventarsi un processo? Vuoi sapere chi è che l'ha detto, forse da te, in maniera precisa? Uno che è anti-berlusconiano e disse addirittura che perfino Veronica Lario si era comportata male perché non aveva cacciato lo stagliere. Lo stagliere è stato lì dal 74 al 75, professore, che nell'82, non, 81 non c'era, quindi. Però ha detto una cosa giusta, Musi intendo, ha detto non può essere prostituzione quella nella dimensione del lusso, cioè la prostituzione prevede una forma di indigenza, diventa lavoro. Una che lo fa per comprarsi una borsa di Hermès o per comprarsi una qualunque cosa che appartenga al suo divertimento, lo fa con piacere, e sarebbe parte lesa se il ricco non le desse qualcosa. Ma se il ricco le regala un'automobile, le regala una pelliccia, le regala... Vabbè, non è che esistono solo le prostitute, diciamo, poveracce, esistono pure le prostitute abituate a... prostituzione si configura come un lavoro. Invece queste qua non facevano le prostitute. Ma era un'altra cosa, facevano una cosa che fanno tante, che fanno con un uomo ricco per interesse. Ma la Minetti che fine ha fatto? Tu l'hai frequentata qualche volta? Ma va all'Isola dei Famosi, no? Pare che vada all'Isola dei Famosi, ma te non ti hanno mai offerto andare a voglia all'Isola dei Famosi? Sì, me l'hanno offerto, ma hanno offerto 400.000 euro. Ma in questo caso? Adesso? No, qualche anno fa, l'anno che andò Vladimir Lussuria. Addirittura. Io chiesi 2 milioni, allora loro mi offersero 800 e io rifiutai. Ho rifiutato 800.000 euro, però 800.000 euro. Io ero pronto a chiudere a 1,5. Naturalmente la Sabrina ha detto: ma come si, è una cosa impossibile. L'altro, quel Marziano, ha detto: neanche per 10.000 euro. Dico: vabbè, se mi danno 1,5 ci vado. E me lo faccio, me lo faccio anche mettere in culo. Sì, non proprio questo, voglio dire, metterlo in culo può avere un profilo etico, ma di uno. E non ci devo andare neanche per 10 milioni, quello è un bugiardo. Sì, qualunque cittadino italiano a cui offrissero, compreso Zagrebelsky, tu chiedi a Zagrebelsky, lei andrebbe per 2 mesi dei favori per 1 milione? Ci va anche Zagrebelsky, ci va anche Rodotà, ci va anche Rodotà, ci va anche la Gabanelli, ci va anche Santoro, 1,5 milioni, 2 mesi al mare. E dico, cazzo, io ho chiesto 2 milioni, mi sono dato 1,5, io avevo posto il punto di rottura a 1,5. 800 ho detto di no, 800 ritenevo che fossero offensivi a fronte di quello che prende un Bonolis. Sì, allora, certo, dico, no, certo. Però, se mi date 1,5 ci vado. Parenzo, secondo me 350. No, ma se a me mi dicono 1,5, anche 100.000 va bene. Ma tu ci... No, se a me mi dicono, non lo diranno mai, ci vai, io metto un punto, diciamo, a un milione garantito. Sì. Un milione garantito, firmo domani mattina. Andai, so se c'era ancora Costanza, andai con questo che si chiama Marziano, anche simpatico, osservatorio dei minori, che mi fece Marziale. Ma tu, un po' marziale. Io neanche per 10 milioni, vaffanculo, che 10 milioni, ma che cazzo dici? Cioè, io raccontai che ho chiesto 2, ho avuto 800 e non essendo arrivato a 1,5 ho rinunciato. Questa asticella poi può anche essere, però mi pare che 1,5 vada bene per tutti. Credo sì, anche napoletano. Ma lo sai, anche allora voglio dire, no, napoletano no, dai, napoletano. Io credo sì, sì napoletano, napoletano no, dai, napoletano. Napoletano no, quando si è dimesso, non come Razzi, alla fine della sua missione, secondo me ci va anche lui, prende il sole, va con Clio. Ma tu che sai un po' tu che sai un po' tutto di quello degli, della, del mondo della politica dietro le quinte, ma secondo te cosa, cioè, che succede al Quirinale? Allora, il Quirinale è fatto così, vi dico come funziona. Ci sono dei finti candidati donne che si chiamano Pinotti e sì. Finocchiaro. Sì, poi c'è sì. Niente, comunque si è avuto la tragedia della scorta. Il vero candidato di Renzi è Chiamparino, sì. È anche un buon candidato, però il problema è che dall'altra parte non hanno candidato perché sono completamente morti. Dovrebbero, secondo me, giocare la partita di mettere in difficoltà la sinistra candidando Muti. E tu a Muti fai vabbè, Muti perché amico, perché amico tuo, no, no, dai. No, lo dico no, perché è l'unico intellettuale italiano che non sia di sinistra. Quindi tu avresti due piccioni con una fava, un nome assoluto e un nome non di sinistra. Il mondo guarderebbe la sinistra un po' con compatimento se dicessero chiamo Chiamparino e non Muti. Sì, quello sì. Uscirà Draghi. Draghi è già bello pronto. No, no, il banchiere non esce, no, sì, no, sì, no, sì. Quello della Banca Centrale Europea guarda, non è. Ma non è che non esce, se si impunta Berlusconi, non avendo un candidato di bandiera, non può dire Letta, non dirà Muti perché non è capace di giocare la partita. Secondo me alla fine spunta fuori Veltroni. Vorrei fare un silenzio che equivale a una pernacchia. Non... Ah, beh, addirittura, no. Dai, su, Vittorio. No, vabbè, ma insomma c'è un limite a tutto. No, questo... no, cioè, meglio Parenzo. No, perché sai che il punto... No, il punto... Punto Parenzo. Io propongo Parenzo per presto. Ma non è diventato sì, equilibrato, ecumenico. Ma lo sai qual è il punto fondamentale? Che poi il Quirinale, se uno non fa niente, non conta un cazzo. Cioè, se il presidente non fa niente, fa il burocrate, il passacarte, non conta nulla. Se uno si mette a fare il presidente... Cioè, se uno si mette a dire la sua, è il posto più potente in Italia. Ah, non c'è dubbio. Perché sei 7 anni blindato e a meno che non fai, non ti metti a pisciare fuori dal Quirinale o a cagare per strada o impazzisci. Sono oppure anche delle vie di mezzo. No, se, questo, voglio diciamo, dire, nel senso, se non ti metti là a fare il colpo di Stato con i carabinieri, non ti può far dimettere nessuno dal Quirinale. Nessuno. 7 anni, il posto più sicuro che c'è in Italia. 7 anni al 100 circondato da 1000 agi. Con delle belle stanze, poi i corazzieri, insomma. Ma tu che faresti a Quirinale? Tu faresti l'inferno a Quirinale? Ah, io farei delle gran feste. Ma cosa fa? Sgarbi il 2 giugno ogni mese, farei il 2 febbraio, il 2 marzo, il 2 aprile, il 2 maggio. No, però devo dire la verità, Vittorio Sgarbi, non succederà mai. Però immaginate cosa può essere per la cultura italiana Sgarbi al Quirinale. Cioè Sgarbi al Quirinale sarebbe una roba altro che queste cazzate di trattative con i partiti. Sì. Ma mostre ovunque, sì, cose, ovunque, cose bravo, pazzesche. Il Quirinale sarebbe come il Louvre. Ragione. Aspetta, ma chi c'è che rompe i coglioni? C'è uno che mi sta tartassando da 10 minuti che mi fanno segnale. Il solito Paolo da Udine. Vabbè, dai, Paolo, avanti. Che vuoi dire a Sgarbi sì, un'altra sì, volta? Buonasera, buonasera, che c'è? Cruciani. Adesso me lo manda anche al Quirinale, ma stiamo scherzando. Abbiamo già le palle piene di ascoltarlo qui, figuriamoci. Ma dai, al basta con questa storia. No, è la verità. Sgarbi, sei finito. Sei assolutamente allora, finito. Allora guarda, adesso io è non so chi sia tu, ma basta TV. Che tu guardi dici, virus dove gli ascolti cose. Più alti sono sempre i miei. Tu sei una merda dici. Secca, una merda ecco, secca, subito una merda secca. Aspetta. No, perché tu finito, lo dici a tua ma madre, a tua figlia, a tuo cugino, finito, sei tu. Sono vivissimo. Paolo ha ragione Vittorio. Finito. Inesistente. Ma Cruciani, perché lo hai fatto? Sì, Paolo, però non è che tu mi puoi chiamare ogni volta a fare gli stessi discorsi su Sgarbi. No, ma dici che guardi virus sono i miei ascolti, sono i più alti di tutto il programma. Sarà finito lui. Che gli vuoi dire poi? Che gli vuoi lui dire? E sua moglie, che gli vuoi sua dire? Figlia e sua donna, ecco, con lutto, bravo. Lutissimo. Ecco, sì. Che a gli parte, vuoi dire? A parte queste gentilezze, caro. Sì, ma che gentilezza, sei finito tu. Sì, io non sono mai bene, stato va, finito. Va bene, mai sono stato. Hai sono ragione, 30 anni che me lo dico. Hai ragione, bravo. Vado alla televisione, ma come la mettiamo? Allora, come la mettiamo? Allora, sei finito tu, sei uno scassamiglia. Ecco, Paolo, basta con sta storia. ogni volta questa è la rompe il cazzo e ascolta i ragionamenti. Basta Sgarbi, non basta io. No, cioè, basta tu che non sei niente. Ma Paolo, non sei niente. Io non tolgo tu la linea. Morto, Paolo, finito. Paolo, io non tolgo la linea a nessuno, però mi costringe a toglierti la linea, Paolo. Basta. Ogni volta. Ma perché tu inganni le persone, chiami dicendo devo dire una cosa fondamentale a Sgarbi e poi lo attacchi, dai. Vi lascio parlare un attimo. Sì, però aspetta, Vittorio, sentiamo. Scorreggi, non parli. Aspetta, Paolo, dimmi, dai, forza. Quale classe posso avere con un cretino? Sì, il cretino sei. Il cretino eccezionale. Il capra, certo. E ti copro di insulti. Ti copro di merda come meriti. Ecco, aspetta, Vittorio. Lasciamolo finire un attimo. L'ultima cosa, inutile. Povero cretino. Se attacchi di nuovo ti butto giù, Paolo. Se attacchi di nuovo ti butto giù. L'ultima cosa. Io... Faccio un ragionamento. Non mi dica che un ragionamento. Lui è finito. Fai un ragionamento. Suo padre. Fai un ragionamento. Vai, Paolo. Ecco, ma Paolo, il dottor Sgarbi ha mai pensato che ha rubato il posto a chi poteva voler lavorare? È l'unico senza stipendio. Non ho mai preso una lira. Basta. Che è condannato definitivamente. Ma non io ho mai preso una lira. Ero in aspettativa senza stipendio. Basta. Dai Paolo, basta continuando questa cosa idiota di giudici imbecilli su di lui. Basta questa storia. Si occupassero di altro. Complimenti, al Quirinale, figuriamoci. Ma era un gioco, ovviamente, no? Ma anche lui l'ha preso come un gioco. È meglio Sgarbi al Quirinale di Napolitano. Meglio Sgarbi di Napolitano. Meglio Sgarbi di tanti altri. Qual è il problema? Ma Cozzani ci si mette anche lei adesso. Ma Paolo, ma dico, ma tu... siamo fuori, c'è la Zanzara, una trasmissione. Ma non hai mai letto niente. Non hai mai letto niente. Leggi quello che ho scritto prima di parlare. Mi sa che ho letto più di te, Sgarbi. Non hai letto un cazzo. Caravaggio ha ucciso un uomo ed è un grande artista, non capisci un cazzo, ignorante. E allora vai a uccidere gente in giro, vai. Capra vecchia fattoria, fermate te fuori dai coglioni. Paolo, dai, basta via, togliamo la linea, basta, dai, via Paolo, pubblicità. Che cazzo vuole questa Zanzara molesta di merda, lui e quell'altro stronzo che gli sta a fianco. La Zanzara. Allora, fra poco lasciamo Vittorio Sgarbi che deve andare a 8:30. Voglio chiedere a Vittorio una cosa, lasciamo perdere l'ascoltatore di prima. Perché hai definito la Boschi una bottegaia? No, non era la bottega, ho detto che era la ragazza di bottega di un avvocato, poi il giornale come sempre alternato. E d'altra parte la Boschi, ma forse non lei, come tanti, tutti, voglio dire, quelli che avevano un lavoro di dipendenti pubblici, funzionari di Stato, professori, pensi al caso di Amato o di Scalfaro, sono stati l'aspettativa. E non hanno rubato il posto a nessuno, lo dico perché magari la gente non sa quello che dice, cioè tu quando fai il deputato sei costretto ad andare in aspettativa da professore universitario o liceale. Così io, che ero sovrintendente, sono andato in aspettativa. Sì, per tanti anni. Anni, ma ho fatto 20 anni di Parlamento. Voglio dire, ecco, quanto alla Boschi, la Boschi, dice qualcuno, forse non so dove l'abbiano sentito, che continua ad andare 2 giorni alla settimana allo studio di avvocato. Io ho detto, non può fare il ministro chi è stato nella bottega di un avvocato in una situazione in cui evidentemente la sua esperienza è ancora molto... Ma come giudichi la Moretti che passa da Bersaniana a... Una ragazza sveglia e furba, tra l'altro forse pochi ricordano che inizialmente fu candidata con Forza Italia. Sì, no, proprio Forza Italia no, ma comunque una formazione... Una civica. Una lista civica legata al centrodestra. Cioè... No, una ragazza sveglia, furba, molto bella, molto fascinosa, non so quali pensieri politici abbia, però certamente ha capito che Bersani era il cavallo sbagliato e soprattutto che era vecchio, perché il vantaggio di Renzi è tutto nella sua giovinezza, è tutto nella sua dimensione di persona che stabilisce che è necessario fare un salto generazionale. Ragazzi, e tra l'altro poi, se uno, diciamo la verità, Parenzo, se uno deve scegliere tra Renzi e Landini, la coppia Landini-Camusso, ma chi cazzo sceglie oggi in Italia? Diciamo la verità. Se io devo scegliere, io non scelgo nessuno dei due, ma se proprio uno è costretto a scegliere tra Renzi e la coppia Landini, se tu guardi la Camusso, Vittorio, che cosa pensi se guardi la Camusso? Ma intanto, sai, se guardo la Camusso penso che ha un problema di fisicità, cioè una rigidità così... come dire, forte, che è difficile sentirla. Insomma, mentre la Boschi la Camusso appartiene al genere Rosy Bindi, cioè le donne che vanno avanti da sole, quindi vanno ammirate, perché è difficile immaginare un maschio che può sostenerle, no? Cioè è difficile, un maschio che... Tu dimmi, qual è il maschio che manda avanti la Camusso? Nessuno. Quindi in realtà loro sicuramente andata avanti da sola, dici tu, sicuramente andata avanti da sola. E quindi questo va apprezzata perché la sua fisicità, tu dici il fatto che è com'è, secondo te? No, ma beh, come dire, è una donna fortemente virile, no? Che non vuol dire che sia. No, però tu dici non c'è nessun uomo che la può aiutare sul lavoro per. No, ma non perché non la può aiutare, perché non ha desiderio di aiutarla. Cioè, è un dato abbastanza inquietante. Cioè, tutte queste ragazze, la Picerno, la Moretti, la Bonafè, sono belle ragazze. E quindi la funzione di Renzi verso di loro è esattamente come quella di Berlusconi. Sì. Cioè la loro bellezza è un vantaggio evidente. Sì. Per questo quando io ho parlato... Cioè la Camussi paradossalmente è meglio di questa. È meglio sia la Camussi che la Rosy Bindi. L'ho rivalutate rispetto al fatto che il loro posto l'hanno conquistato senza che nessun uomo gliel'abbia concesso. Ma se non metteva capolista la Bonafè, la Moretti, la Picerno, quando mai sarebbero queste diventate deputate europee? Sì, no, ma questo non è un ragionamento sbagliato. Cioè Sgarbi ha rivalutato la Camusso e la Bindi perché paradossalmente la loro bruttezza, diciamola tutta. Ma io non so neanche che si brutta sarebbe. No, infatti, bruttezza, diciamo. Però certo un aspetto che non è quello di chi dice, ho detto c'è un uomo dietro di lei, non c'è un uomo dietro di lei. E invece queste altre Moretti sanno anche se non le ha scopate, dietro di lei, dietro di loro c'è sempre Renzi che ha stabilito per loro il loro posto e ha voluto loro a quel posto. Perché belle? Perché belle? Perché belle, perché gradevoli, perché eleganti, perché giovani, perché tutto quello che ti pare. Allora, io quando mi hanno fatto non per domanda, la loro intelligenza, dici tu. Ha ragione Rosy Bindi che dice non basta essere belle anche se brave. Sì. Ha fatto quell'attacco famoso. Ma perché l'ha fatto? Perché lei è arrivata a quel posto da sola. Da sola, non c'è un uomo dietro di lei. Sì, mai. È vero. La Camusso, mi pare, non so niente della Camusso, ma mi pare che sia arrivata lì grazie alla sua funzione, che è una funzione di persona, non di donna. Ho capito, va bene. La Moretti... Sì. Sì, certo, è una donna e anche una persona, ma la sua donna, la sua natura femminile è talmente evidente che piace perfino a Giletti. Che vuol dire piace perfino a Giletti, scusa? Non sei fidanzata con Giletti? Sì, dici persino a Giletti. Giletti si fidanzava persino, con la Camusso. Persino a Giletti, nel senso che tu dici che non gli piacciono le donne? No, volevo fare quella battuta. Dico, se Giletti, che è uno che non sta con una perché è un politico importante, ma sta con una perché gli piace. Sì, mi sembra che la battuta fosse quella che dico io, che dicevo io, però, scusi, piace persino. No, ha evidenziato la natura femminile. Io qua, posso dire una cosa, io invidio Giletti perché io conosco bene la Moretti e l'avrei voluta corteggiare, però mi ha frenato il suo ruolo politico. Ho detto, lei è talmente presa, mentre Giletti è riuscito a superare il ruolo politico e a vederla come donna. Ha fatto un'operazione formidabile, l'ha spogliata del suo ruolo politico. Vabbè, sono stato capace. Ciao Vittorio, l'ha spogliata presto. Dei vestiti. Ciao. Del ruolo politico. Ciao, presto, ciao. Il traffico è il problema. La Zanzara. Le grida da Crociani la devono cacciare via dall'ordine del giornalista perché lei la offende. Vittorio Sgarbi scatenato, caro Parenzo, scatenato. Che volevi dire? No, che mi dispiace di quello da Udine che chiama sempre per insultarlo sulla stessa cosa, quel da Udine, come si chiama quello lì da Udine? Paolo da Udine. Che stasera l'ha fatta grossa, l'ha fatto proprio imbarazzare ai matti, l'ha fatto proprio andare ai matti, dai. Beh sì, l'ha fatto andare ai matti, vabbè. Ma sì, perché poi quella voce, è anche la voce di quel da Udine che è fastidiosa, no, perché ma lui la voce, non è aggressivo. No, poi no, sì, non è aggressivo, cioè, non è aggressivo. Punto. Cioè non è che gli dice delle cose con è come quello degli ebrei là, dei Rom, uguale. Come quello dei Rom, uguale, questa voce da killer da però killer seriale, ma che le medita le robe, quindi quella voce Sgarbi, volevo dirti, ma è terribile, mi dà fastidio a sentirlo proprio. I'm on the back streets taking love where I care. Ragazzi, ma nessuno si è mosso per quel collaboratore della ex collaboratore del parlamentare dell'Emilia Romagna, del deputato regionale dell'Emilia Romagna che abbiamo intervistato noi, vedo che è stato ripreso da Siti, eccetera, eccetera. Com'è che si chiama? Non mi ricordo, si chiamava Genovese, se non sbaglio. Genovese. Io ricordo il nome di lei, Rita, francamente. Beh, anch'io, invece io ricordo tutte e due: Rita Moriconi e Genovese, Rosario Genovese, se non sbaglio. Rosario, questo Genovese, che oltre ad averci detto che non era forse un vibratore, ma è forse il frustino, ma è stato licenziato. Cioè, lui dice che si sono messi d'accordo, ma è chiaro che se non c'era questa roba lì il datore di lavoro non si sarebbe mosso. Questa no? È un'ipocrisia pazzesca, sì. Questo avesse regalato una bottiglia di vino, si fosse comprato una bottiglia di vino. Sentiamo. È incredibile. Adesso che cosa farà? Perché la consigliera la caccerà o no? Cioè verrà cacciato dal suo posto? Guardi che io non sono più collaboratore del gruppo della regione già da un bel pezzo, dall'aprile del 2013. Ah, dall'aprile 2013. Che fa adesso lei? Io adesso da stamattina sono disoccupato. Perché da stamattina? Che è successo? Perché questa vicenda ovviamente mi ha portato al fatto che era incompatibile la mia presenza dove stavo lavorando. E dove stava? Lo staff del... In regione. In regione? No, lavoravo in un'azienda. Allora, andiamo con Barese, Piercarlo, vai. Ciao, buonasera a tutti. Dimmi. Allora, non ho mai votato Salvini perché sono di sinistra, però quel pazzo che gli è sulla macchina, che viene a dire che è lui l'aggredito, veramente bisogna spiegargli che il mondo non va così. Ah dai, ma è un pazzo, ma un pazzo, poi per carità, non è che è uno che mette la sua faccia, che parla, non come quelli che vanno incappucciati, non come quelli che si fanno intervistare. No, volevo dirtelo, rimane aggressione. No, ma io apprezzo quelli che ci mettono la faccia e dicono... perché io ieri li ho visti, sono stato a lungo con loro, anche prima della diretta, per conoscere, per capirli, per vedere il loro movimento, non hanno nulla a che vedere né con gli anarchici né con i cosiddetti black bloc, cioè sono tutta un'altra roba, cioè sono un collettivo studentesco che volevano andare lì a manifestare e non fare arrivare Salvini. È una manifestazione che doveva svolgersi in altro modo, che non avevo nessuna intenzione. Io a questo ci credo, perché poi le dinamiche della piazza, di quando scattano quelle cose lì, sono completamente diverse. Ma voglio dire, se fossero dei criminali non sarebbero venuti a volto scoperto in trasmissione. Questo guarda, te lo voglio dire proprio perché quando uno dice che bisogna impedire a Salvini giornale. Ma quando uno dice che bisogna impedire a Salvini di entrare in un campo rom, quello là secondo me non è uno democratico. Va bene, lo faceva Gandhi Gandhi con ma la che c'entra, ma Gandhi era contro la cosa, dai, la colonizzazione, ma non no, dire cazzate, dai. Stai paragonando quel tizio là a Gandhi, no, sei ridicolo. Loro non sono stati gandiani. Dai, ma quali gandiani? Hanno sfasciato la macchina, dai. Hanno sfasciato il lunotto. No, ma hanno sfasciato anche i vetri, non essere così preciso. No, hanno fatto una cosa grave, indubbiamente. Non ho mai preso quella roba lì. Però loro sono andati lì a volto scoperto, a mani nude. Vabbè, ma certo, ma sembra una cosa strana andare a volto scoperto e a mani nude. Ci mancherebbe pure che... Ma ci può stare che tu, ad esempio, fai... Ci può stare di una battaglia politica. Che tu ma non ci può stare la umano, violenza non ci può stare, lo facevano le femministe, lo hanno fatto in America, ma stai scherzando? Le battaglie veramente degli afroamericani. Vabbè, diamo la linea di dubbio. Fermiamoci un attimo, dai, siamo ad alti livelli qua. La Zanzara ormai è tutto degradato. Allora, a me è piaciuto molto ieri quell'imprenditore che era Danno 1, com'è che si chiama? Brambilla, sì. Ah, infatti, va in tutte le televisioni, era anche sì, a Ballarò. Parla più vicino al coso, ti prego il microfono. Parla vicino al microfono. Allora, era a Ballarò. Sì, era in più trasmissioni. Brambilla, non perché se n'è andato, per un certo punto perché si è offeso sul Papa, non c'era niente di cui offendersi per quelle quattro pagliacciate con le tette di fuori, quelle là che ormai non fanno nemmeno più scena. Andassero, hai ragione te, andassero a fare casino in Russia, non in Vaticano, che le fanno pure entrare perché Bergoglio dice venite pure che vengo a parlare con voi. Addirittura ha invitato Patti Smith a fare un concerto, Patti Smith sì, che faceva da giovane le peggio cose, no? No, ma non c'è provocazione se non c'è sanzione. Ma per cui il crocefisso dentro le femmine in Vaticano, esatto, non c'è nessuna sanzione. Mentre vanno in Russia, Putin le arresta. Vanno al confine con il Tibet, tra la Cina e il Tibet, i cinesi tempo 40 secondi le portano nelle celle cinesi. Ecco, in Vaticano non succede niente. Allora, senti questo Brambilla. Vanno dall'ISIS, gli tagliano la gola. Senti questo Brambilla quanto dice gli imprenditori. Le scende e le riceve. Esatto. Brambilla dice, e fammi parlare però. Brambilla dice gli imprenditori non investono perché c'è Landini. Ecco, a quel punto là a me mi è venuto mi sono quasi emozionato, come dire, quasi emozionato. Gli imprenditori a fare impresa. Oggi allora fateglielo fare. Li mettono in condizioni di andare all'estero, di chiudere, di tirare i remi in barca. Perché ma non puoi continuare ad avere interlocutori secondo come Landini. Perché quando tu trovi la gente come Landini, decidi di non investire più. Andiamo con Bari, Antonio. Pronto? Vai. Sì, volevo esprimere un attimo un mio pensiero per quanto riguarda quel signore di Genova lì che ha detto quella minchiata di quelle proprio allucinanti, il fatto del compattatore e quant'altro. Però condivido solo un punto, che gli animali si possono addestrare e farli andare sulla strada retta. I rom veramente è impossibile. Ma lei sta parlando sul serio? Sì. Cioè, lei sta dicendo gli animali. Ti ricordi che una frase del genere, lei non ha una funzione pubblica, non ha un ruolo pubblico. No. Per sua fortuna. Inchiodò la povera Tiziana Maiolo. Esatto. Proprio 4 o 5 anni fa, ormai non ricordo più. Sì, noi litigammo a morte con Tiziana Maiolo perché disse una frase qui alla Zanzara. All'epoca era. Che credo, poi ci ha perdonato, peraltro. Sì, poi ci perdonò anni dopo, è rimasta incazzata come una bestia per anni. E Tiziana Maiolo era assessore in un paese qui nel Milanese. Si dovette dimettere per una frase. Era responsabile giustizia di Forza Italia. Per una frase. Esatto. Una frase tipo quella che lei sta dicendo, cioè gli animali si possono educare, i rom non si possono educare, giusto? No, allora forse mi sono espresso però, male. Allora, l'animale è, diciamo, si può educare nel senso che... Ma quello è normale che sia un animale, infatti è un animale. È un animale. Ma i rom, diciamo, non... Non c'è verso. Non c'è verso, perché li abbiamo tentati in tutte le maniere con i rom, è sempre la stessa storia poi alla fine. Voi fatevi un giro, allora precisiamo già determinate. Ma fosse cose. Per lei cosa bisogna fare allora con i campi rom? Io li smantellerei tutti, evidente, ma mica voglio bruciare i rom che ci sono dentro. Per me i campi rom sono per natura sono una contraddizione in termini. Cioè chiunque deve avere una carta d'identità, una residenza ufficiale in un posto normale, in un appartamento, in una villa, eccetera. Cioè è proprio l'esistenza di un campo rom che per me è una follia. Ha capito? Ma voi ci siete entrati in un campo rom? No, francamente no, io ne conosco tanti perché vado a correre, li vedo da lontano, sia a Roma che a Milano. Lui c'è entrato per lavoro, ma non hai vissuto in un campo rom, sei stato 5 minuti a fare un servizio fuori con la protezione della polizia, Parenzo, che stai a dire? Altro che 5 minuti, sono stato dato un sacco di volte. Sì, ho capito, ma protetto da tutti, intanto accanto a me ci sono due sentinelle, io ho due sentinelle, le sentinelle, io sono protetto stasera dalle sentinelle della Zanzara, che poi sono le sentinelle di Riccardo da Roma, che sono silenziose, mute come sentinelle in piedi e sono qui accanto a me per mia protezione, cioè una specie di guardia personale. Fermi tutti, è con noi Saddam, aspetta, sono come Saddam, è con noi Mario Adinolfi, buonasera. A proposito di sentinelle in piedi, diciamo, hai fatto il link. Esatto, a proposito di sentinelle in piedi, allora io voglio capire perché sei così incazzato per quello che è successo ieri in televisione. Ti ho visto imbestialito oggi su Facebook. Sì, non mi piace la strumentalizzazione, queste cose mi mandano ai pazzi, capito? Quando tu devi fare il giochino per alzare un po' di share, di far mandare a quel paese il Papa a bestemmiare in diretta, fare cose senza senso, e poi fatto perdi con Nicola Porro, sto proprio male, insomma. Cioè vuol dire veramente che la cosa oltretutto era pure insensata da quel punto di vista, dal punto di vista per cui è stata costruita. Cioè l'idea di usare queste cose sono un pochino importanti per un po' di persone, no? Il Papa, il sì, addirittura insomma, queste qua a un certo punto hanno detto fuck the Pop e non è stato manco tradotto. Sì, fuck the Pop. Io non mi scandalizzo come te, perché ovviamente. Ma io non è che mi scandalizzi, ma l'operazione è smaccata. Devi far la prima puntata, vedere, eccetera, eccetera. Sì, ma le femen è una roba vecchia, antica, morta. Le femen l'abbiamo viste poi a San Pietro, abbiamo visto cose. Si stavano infilando, si volevano infilare un crocefisso nel culo, un minimo di rispetto è rimasto, minimo. Sì, però guarda che Mario, secondo me, per come è fatto questo Papa, capace pure che le invita su, il Papa. No, non le invita su, il Papa è un gesuita, cioè, è una persona. Tu ci stai dicendo che non è così aperto come sembra. Accoglie le braccia, ma proprio leggete i documenti e leggete quello che c'è scritto veramente nelle parole del Papa, che è una persona seria, mica è uno che deve fare spettacolo, mica è Giulio Innocenti il Papa, ragazzi. Però un po' di clownesco ce l'ha sto Papa, È molto capace di stare sulla scena, ma sa, insomma, è ovviamente un Papa, cioè uno che ha una posizione di una cultura. Ma una guarda che piace, infinita, che piace, cioè. a gente insospettabile, perché secondo me hanno sbagliato. Piace alla gente che piace, ma non lo sanno leggere, non lo leggono mai, non leggono mai i documenti, non leggono mai i discorsi. Cioè tutti quelli entusiasti del Papa sono tutti coglioni secondo te? Non capiscono quello che dice il Papa, basta leggere quello che dice il Papa, cioè il Papa dice cose molto nette, molto serie, trovatevi un passo di modifica dottrinale della posizione ecclesiale. poi ovviamente lì, insomma, ha un'immagine di apertura come deve avere, perché la chiesa deve essere assolutamente aperta. Adesso non mi dite che invita le femen, perché alle femen gli dà un calcio guarda, al culo, calcio nel culo alle femen non credo, dai. Metaforico ovviamente. Ma secondo me invece quella roba era talmente, ragazzi, era proprio brutta, era oscena, blasfema e brutta. Ma brutta, capito? Allora le cose brutte non le vogliamo vedere in giro, insomma, non c'è bisogno di legittimarle e dire che sono libertà d'espressione. Non è che ogni cazzata è una libertà d'espressione. Ma hai visto te, hai visto Mario? Hai visto quella roba lì? Su una cosa ha ragione Marione, di noi. Su cosa? Su cosa? Cioè che quella roba lì di per sé non aveva nessun atto né rivoluzionario né provocatorio. Perché guarda che la provocazione senza sanzione non esiste. Cioè queste cose qui possono avere un valore se poi smuovono o cambiano qualcosa, vale nei regimi. Ma sì, ma io stesso che sono la persona che sono anche anticlericale. Era un puro insulto nei confronti di Papa Francesco. Vabbè, ma quello il problema, cioè una cosa senza... Ma dire che Papa Francesco non può andare a parlare al Parlamento Europeo è una cosa cosa ridicola, dai, su. Allora, dai, ma non ha senso nemmeno per me che sono anticlericale al massimo, penso. Allora, possiamo dire che non è che tutto ha, diciamo, legittimità di opinione, cioè esiste un'opinione del Ma quello ognuno fa quello che adesso che vuoi fa? Vuoi chiudere a cosa? A Cairo? Cara Innocenzi, rendete conto, insomma, no? Che hai preso pure la botta da Nicola Porro con sto pedaggio. Ma tra l'altro ha detto pure, beh, non credo che abbia preso la botta per quello. Comunque ha detto pure come si fa a non essere d'accordo con quello che dicono queste ragazze, dai. È quello, zittiva il ragazzo che aveva dei dubbi, perché qualcuno ha avuto dei dubbi, Brambilla se n'è andato, il ragazzo aveva un'opinione diversa. L'opinione diversa non poteva avere, là non aveva diritto di cittadinanza. Quello che aveva un'opinione diversa era il Femen. Ma come fai tu, ragazzo italiano del 2014? Sì, quello l'ho trovato ridicolo, dai, quello l'ho trovato. La sua formazione radicale. Senti una cosa, però la tua pure purtroppo. La mia pure, però aspetta, io sono guarito da Pannella. Guarito da Pannella, nel senso che considero Pannella ormai tutta quella robina, una roba finita, ma mi è rimasta questa cosa del matrimonio gay, però io sono già oltre, perché io non farei mai l'avvicinamento. Adesso Pannella è a favore di Papa Bergoglio, secondo me non ha capito una mazza nemmeno lui di Papa. Non lo sa leggere i gesuiti, è una cosa molto interessante. Io non leggo i gesuiti, io leggo Rocco Siffredi, che tra l'altro mi dicono... Perché scrive, fate capire. Beh, quello che ogni tanto con qualcosa... Che Arnese no, è vero, vabbè, non scrive. No, leggo Valentina Nappi, però... Meglio Valentina Nappi. Non pregnaggia la libertà di coscienza, ma ti rendi conto, la libertà di opinione... Vabbè, adesso manco Valentina Nappi può scrivere, dai. La libertà di opinione è un problema, signori miei. Senti, però tu lo sai, tanto voglio dare una notizia, lo sapete che io so che al 99% quasi certo che Rocco Siffredi andrà all'Isola dei Famosi. Questa è una bellissima notizia, ottima notizia, perché forse guarderò l'Isola dei Famosi. Rocco Siffredi all'Isola dei Famosi. Siffredi. Ma Rocco Siffredi non sa parlare, c'è un problema. Vabbè, ma non è vero, ma sei matto, lo spediamo sempre al numero uno, ma è number one, come ha detto ieri. Ma che stai a dire? Ma dai, assolutamente. Non solo guardare, ma parlare, no? Comunque è vero, caro Parenzo, che Mario si è costruito questa formidabile figura. Anche lui un po' ci manca. Marione del grande reazionario, del grande. No, ma sono un progressista. È il nostro al-Baghdadi, anziché colpire con la spada, colpisce con la parola. Ma va bene, che mi è molto simpatico. Senti, ho letto una storia straordinaria, Mario. Davide, ho letto una storia straordinaria. Mario, ti saluta anche la mia compagna. Mi ha detto. La saluto. So che le sto simpatico. Mamma mia. Sì. Ho capito, siamo alla radio, non è che stiamo a fare qua il coso. Non ha detto salutami Mario e quella testa di cazzo di Cruciani, ha detto salutami a Vittorio. Allora Dinolfi si è attribuito il merito di non aver mandato Luxuria a cosa? No, non mi sono attribuito nessun merito, prima l'hanno invitato, però non l'hanno invitato. Ma avrebbero fatto un grande gesto, cosa. Dai, Luxuria alla televisione, televisione della CEI, stupendo. Un minimo di attenzione, non è che ogni stupidaggine ha legittimità, Luxuria ha diritto di ma lì è arrivato Sortino, adesso è arrivato Sortino e voleva fare qualcosa di ma nuovo. Ma non è che tutto diventa le Iene, capito? Non è che proprio tutto detto di è lui che la voleva, è lui che la voleva, dici tu, è lui che la voleva. Lui è Ruffini, Ruffini è quello di, no, di che tempo che fa. Allora, la cosa, l'altra cosa, ho letto una storia straordinaria che è questa di una coppia gay in Gran Bretagna o in America, non mi ricordo, che avrà tra poco tre figli da tre donne diverse con la da tre uteri in affitto. Beh, così qui siamo veramente al top. Allora la mercimonio del monolocale ormai, capito? Siamo veramente al top con interviste pazzesche a questa qua che non è la prima volta che fa l'utero in affitto, ma è stupendo tutto ciò, una grande storia d'amore, una grandissima storia d'amore, Mario. Di mercato, di soldi, di quattrini, che triste cosa, si fa, i figli si fanno facendo l'amore, così si fanno, non comprando l'utero a qualcuno. Vabbè, ma non è che se uno non può scopare e non fai figli. Ma no, Mario, dai, cazzo. È molto semplice, non fai figli, ragazzi. Ah, dai, se uno adotta. Ho capito, ma è complicato. Se due lesbiche non possono fare figli e vogliono un bambino da crescere, ma non possono fare i figli, signori miei, non lo possono fare. Dai, Mario, cazzo. Ma sei inumano. Ma vabbè. Il diritto a diventare magro, allora, per diritto. Insomma. Senti, viva la croce, viva la croce, ci sentiamo nei prossimi giorni. Ciao. Gennaio in edicola, vabbè, è presto ancora, poi faremo la pubblicità come di dovere. Sentinelle di Riccardo, fra poco tutti alla grande cena. Tutti alla grande cena. Parenzo, manchi solo tu, sei uno stronzo, no, lo sai, sì. Ma che cena è? Non ho capito. Ma non sai un cazzo, te l'ho spiegato mille volte. Aspetta. Giacomo da Brescia, concludiamo, Giacomo. Cena di questi nulla facenti. Ma che nulla facenti? Vi ha chiamato nulla facenti, zitti voi, sentinelle. Vi ha chiamato nulla facenti, ci sono 80 nulla facenti e malvissuti questa sera, una cena a Milano con me, con sottoscritto e altre persone. Giacomo da Brescia, vai, finale, veloce. Ciao Cruciani, ciao. Vai, Parenzo. dimmi. Una cosa soltanto volevo dire, per il fatto che ho portato via i minorenni dal campo lì a Roma, questo e quello, dovevano farla prima quella scelta, perché queste persone... Minorenni, che hanno portato via? Ma sono tornati i minorenni poi al campo? No, poi li hanno riportati via. Allora? No, sarebbe giusto fare così, perché io ho dei distributori, ho subito 4 furti da zingari, da Rom. Ma quelli non erano Rom, erano un'altra cosa, non sono Rom, sì, quelli là. Ma lei mette tutto insieme, extracomunitari, Rom, marocchini, negri, puttane, magari, dai, su, Giacomo. No, portiamooli via i figli da quella gente. Ah, lì, guarda che c'è, in Italia è pazzesca sta cosa, ma sono addirittura peggio di me, Io so che sono molto duro sull'immigrazione clandestina, c'è gente, ho scoperto in questi giorni, molto peggio di me, io sono molto duro sull'immigrazione clandestina e anche sui campi Rom. Vabbè, la musica mi sta rompendo i coglioni, ci sentiamo lunedì 18:30, ciao. Legge e ordine, l'ordine di Borghezio deve regnare su Roma. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi, quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Saluti da Roma e quindi saluti romani. Radio 24, la passione si sente.